lo so, in questo modo intorno la presenza quando si muove, non posso volare di canale di giorno. Città in grado, solo con la lombra, non credo che voglio spazio, non va a me. Stesso resti dedica, ma la da perdere, si dedica. Stesso aperto, proprio contesto, che ritroviamo ormai la morte. Se ne accorgiamo per i casi, come nei riconcetto. Quello che nulla è il senso, quello che fai cemento. A me ogni caso è sempre un la sorte assoluta del concetto. Come una questione di abitudine a definire il normale. Sei abituato a concepire il contrappunto in un senso musicale, non concettuale.